Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Oggi sono veramente molto soddisfatto per come riuscirò ad aprire il volume numero 2 di Eclettica di questa settimana. A parte l'incipit che sta per arrivare e che comunque già mi soddisfa di per sé, quello che mi soddisfa di più è il brano che seguirà questo incipit, in quanto mi dà la possibilità di anticipare un album che uscirà solo il 19 di giugno nei negozi di dischi, un album perlomeno da me molto atteso, immagino anche perlomeno da parte di qualche ascoltatore di Eclettica. È il nuovo album dei Polyphonic Spree. Tim Delauter quindi torna con una formula che al momento non sono in grado di descrivere, al di là di farvi ascoltare appunto un solo pezzo, una formula che sembra perlomeno in questo pezzo inizialmente discostarsi dall'inno, diciamo così, a cui i Polyphonic Spree ci avevano abituato come forma, che però mano a mano che il pezzo avanza sembra fra le pieghe della musica ritornare. Quando la ragazza mi scovò, ero appollaiato sul mio albero preferito di Kapok, che piangevo piano, recitando una nenia funeraria. Era ormai sera. Le guglie delle montagne, rosse, aguzze e porose, parevano funghi antichi. Sotto s'alzava il vapore caldo e grigio della giungla. Dal ramo su cui mi trovavo, le spine dei bagnani morti si stagliavano tra quelle ancora verdi come pinne di squalo, coperte d'una cenere biancastra. Nel momento preciso in cui la ragazza passava sotto il mio albero, gettai una buccia di batata colpendola alla spalla. Lei emise un gridolino, comprensibile dopo tutto. Solo pochi anni prima nulla mi avrebbe impedito di balzarle addosso con l'agilità di un leopardo, rapirla e portarla a Yerba, che me la cucinasse per cena. Poi, tentando di confondere il gridolino in un accesso di tosse, la ragazza sbottò: «Parla inglese?» Questo era l'incipit di Un cannibale a Manhattan di Tama Janovic. Oh, What's vacation mean? Vacation? Where Daddy went. Vacation's when you go somewhere and you don't ever come back. Profumo di eclettica. E dopo i Polyphonic Spree siamo andati a pescare nel passato di Eclettica. Il passato in questo caso risale al 2001, quando in quelle playlist compariva il nome Lovage, uno dei tanti progetti di cui ha fatto parte Mike Patton, di cui penso in molti abbiano riconosciuto la voce maschile nel pezzo appena passato, un progetto in cui la produzione però a tutti gli effetti era di Dandy Automator. Book of the Month è il brano che ci siamo ascoltati per lasciare lo spazio ora a una delle proposte più interessanti degli ultimi mesi qua in Italia. Sto parlando dei Joycat. Da quando mi ero messa a fare la puttana, avevo dovuto vedermela con peni di tutte le forme e dimensioni possibili. Certi grossi, altri raggrinziti e con testicoli penduli, certi venati di blu che puzzavano di gorgonzola, altri avari, peni bisbetici, fatati, cosparsi di perle come i grandi minareti del Taj Mahal, peni burloni, striati come la coda di un procione, ardenti, crestati, impossibili, profumati. Più passava il tempo e più ero contenta di non possedere una di quelle appendici. Naturalmente avevo un protettore, un tipo fuori dal comune, già candidato a due dottorati, uno in filosofia e l'altro in letteratura americana all'Università del Massachusetts. Questo era l'incipit di Schiavi di New York, di Tama Janowitz. Thank you. coming along? Mama said not to be taking rides from strangers. This is a busted school. I'm Forrest Gump. I'm Dorothy Harris. Well, now we ain't strangers anymore. Place to rest on, because it's